Ali Bici, mi ascoltate? Gianni. Ehi, guarda per come sta andando. Adesso non lo sta facendo. Una cosa che non si crede, chissà cos'hai. Magari è una cazzata. Ma vedi che lo fa quando scalda. è una cazzata secondo me. È una cazzata. Però bisogna sapere che cos'hai per aggiustare. Prova a fare le prove, a tenere per esempio i watt, per dire, abbassarli a 2 watt, 3 watt e vedere un po' se lo fa lo stesso poi col tempo, così si va a esclusione. L'ho già fatto le prove, abbassato i watt, l'ho messo a 3, ho abbassato il mic gain, ho abbassato il microfono, ho fatto tutte le prove, ho cambiato lo spettone. Dimmi più se devi rubarmi le prove. Qualcosa in perdita, sì, già. Qualcosa che lo fa quando scalda. Sicuramente così. Adesso lascialo così. Che sta funzionando, non si sente niente. Io non so cosa può essere. Allora, l'altro giorno, quando ho attaccato l'antenna, cosa mi è uscita la scimmia? Mi si può assustare. Perché con l'antenna quella lì bisogna fare un lavoro, capito, per evitare che fa quello. Gappa. Sta andando bene già, sta andando bene, allora non è che è una resistenza. No, può essere un condensatore, semmai non una resistenza. Può essere anche il modulatore mio. Il modulatore, perché questi apparecchi hanno il difetto di modulatore e di alimentazione. Questi due difetti, perché per il resto vanno tutto bene. Alcuni anche i numeri del coso, come si chiama, le frequenzine, però quasi sempre solo il modulatore che difetta e poi ho la mania, ho avuto 5, quindi li conosco. Poi ci saranno tanti forum dove avranno spiegato pregi e difetti, giustamente, che fanno col tempo però. Tu dimmi adesso, se io lo devo aggiustare, lo prova, non li fa niente, come fa a scoprire cosa c'è? E chi c'è il problema? Bisognerebbe fare la registrazione e mandargli la registrazione del difetto, che fa dopo un tot di tempo, allora loro vanno in esclusione, sanno dove andare, capito? Però per loro è già un aiuto quello, quando tu gli fai sentire che difetto sta facendo e dopo quanto lo fa. Ma lo vedi come esce questo apparecchio quando è normale? È una bomba. Hai provato a usare un altro microfono? Anche quello ho provato. Ho provato il suo originale, però mi seguo e te lo faccio sentire. Sai che ti faccio sentire con l'originale? Eia. Luca. Eia. Questo è l'originale, come mi ascolti? Non c'è amplificazione, non c'è eco. Aspetta. Adesso c'è l'eco, guarda, 1, 2, 3, prova, cambio. Vedi, va benissimo. Aspetta. Sembra un amplificato. Così è praticamente con l'eco dell'apparecchio, va bene. Così è con l'eco. Capace che abbia fatto che adesso sta tutta la notte con quello spray, magari ha fatto effetto. Può darsi, ma dopo quanto tempo te l'aveva fatto già? Una volta ce l'aveva accesa la radio ieri. Ma l'ha fatto subito ieri, come l'ha accesa, ma l'ha fatto, mi ha detto che stavo uscendo tutto a posto, come l'ha accesa. Però adesso non lo sto facendo, adesso io sto uscendo con l'eco del microfono, del baracchino e col microfono normale. Non lo sta facendo, ma ieri non si capiva niente già, perché ti portava il fischio appresso e la tua voce sembrava addirittura satura, capito? Satura e il fischio appresso, non si capiva proprio niente di quello che dicevi. E che ti devo dire, non so più cosa pensare. Io le ho fatte tutte le prove, si dove potevo, poi diverso ci deve essere il dottore. Hai capretto, me lo resti a vedere come viene, come esce con il telefono normale, non mi sono mai sentito. Aspetta, preparo il telefono. Vai, va, 1, 2, 3, prove tecniche di trasmissione, gale ha lasciato un eco difettoso. Stanno nel radio di guarda. Se te lo stai dicendo, sembra amplificato. faccio la foresta, perché un chilo di 10 centesimi. Io metto un chilo quando è là. K. Come lo fai un pesce? Così o con l'altro? Cucù. Avanti. Ciao Gianni, ciao Luca, di Spazzolato, sto facendo delle prove. E allora già. Ciao mamma. Questo è il Galaxy Saturn con il microfono normale, come mi ascolti? Oggi bene, ieri era tremendo, anche col mic normale. Ti volevo chiedere già, ma Torino era poi partito per quell'intervento? Sì, lo operano domani, a lui è lì. Un attimo, siamo al telefono, io ero in presa. Non è Antonio, è questo poco. Capito? L'apparecchio da ieri a oggi qualcosa penso che l'abbia cambiato, perché ieri l'ho aperto, l'ho tutto quanto pulito, lo spray, l'aria, lo spray, tutto quanto, magari ha fatto effetto stanotte. Sì, già. Bene, bella giornata, volevo fare tante cose nel pomeriggio, volevo conquistare il mondo, poi mi sono fatto distrarre, non ho combinato niente. E vabbè, dai, tanto. Finché non si risolve il tutto, stai sempre col tema d'animo. Cavagala, sì. Vabbè, anche io volevo fare molte cose, poi ho rimandato, adesso mi vedo pure le gambe di vicino, faccio una poco, ma ne va. Stavo solo facendo questa prova di campagna. Adesso vediamo un po' cosa si può fare. Chi è Marco? Vediamo un po' se si può aggiustare qualche cosa. Aspetta, non ho capito per l'eco che ripete, e ripete troppo. Ho detto, se l'hai mai sentito quello. Adesso vediamo se si può aggiustare, proviamo a dirlo, vediamo un po' cosa c'è dentro. E chi è che ha quella voce? Ma online non è gente di qua, no? No, Falco Azzurro, quello che ha gli studi apparecchi. Falco Azzurro. No, non ce l'ho presente, no, zero. Allora, c'è uno su internet che aggiusta gli apparecchi, infatti le cose in diretta quando li aggiusta, li fa vedere quello che li fa, tutto qua. Ed è un bel bravo, addirittura cosa ha fatto, che gli piaceva, un apparecchio tipo, mi pare che era l'Intec, quello che c'ho io, basta. Però si era sballato, l'ha aperto e ha detto che non si poteva fare niente. Allora gli ha detto quello che posso fare è metterti un altro apparato dentro, se ti piace proprio l'estetica dell'apparecchio. E ti faccio funzionare con i pomelli che c'è quello lì, un altro apparecchio. Ho preso un altro apparecchio, l'ha comprato e gliel'ha messo dentro, che funzionava tutto qua. E capretto. Sì, capretto già, dai. Ti ho mandato un messaggio rapido. È arrivito. È bello, grande. Allora, il piccolo pirosmetrino piccolo segnava più stazionari di quante ce n'erano e segnava più guatti di quanti ce n'erano. Infatti mi sono accorto che l'aiutino non è poi così forte di watt come pensavo. In banda laterale è un conto, però in AM c'è un limite. In AM ti dà 80, ti dà. Con 4 watt no. Beh, così sono 4, giusti, 4, aspetta. Cambio scala. E se ci arrivo. Allora, qua mi dice 56 watt. 56 con 4 watt d'ingresso. E non ti basta. Senza filtro, nudo e crudo. Apparecchio, aiutino, prosmetro e antenna. E l'altro me ne segnava 70-80, quindi vedi che questi rosmetrini piccoli. Quello ZG invece me ne segnava troppi lo stesso, troppi. La modulazione la mantiene pulita, spero. Vediamo se è rientrato Luca dal telefono. Luca, allora già, qui se vuoi avere più watt me ne devi dare in ingresso fino a 10, però ne puoi dare 6, 7, poi satura, non c'è scampo. Vabbè, dai, io chiudo tutto, dai, vi lascio acceso l'apparecchio perché voglio vedere come si comporta, lo lascio scaldare. Sì, siamo lì 55, dai. Ciao Luca, ma Gianni non ha risposto, forse è stato distratto o l'hanno chiamato al telefono. E poi poco fa mi sembrava Antonio Popolo. Modulazioni, il beep, eccetera. Olu, mi è arrivato il CN901. Bello, bello, di russo. Sai, guarda, proprio ieri l'ho aperto il mio e l'ho messo sotto, siccome c'ha due lampadinette bianche quello. Funziona tutto, c'ha il PP Oda, anche se è quello uguale al mio. Io l'ho smontato e sotto gli ho messo una striscia LED blu, larga per tutta la lunghezza sotto nel fondo, ma guarda, è tutta un'altra musica. Questa qua è molto bianca la luce, credo che siano LED bianchi. Sì, lo so. Adesso ti mando la foto, però non so qual è il tuo numero. Tu il mio ce l'hai, perché io a te ti rimando i messaggi, ma tu non li stai ricevendo. Sicuro? Io non ne sto ricevendo, Luca, da te da parecchio. Vabbè, io non ne mando molti, però non mi piace assillare le persone, però tu sei in elenco, ci sei sempre. No, fai una cosa, siccome ho cambiato telefono all'inizio di gennaio, si vede che il tuo numero non ce l'avevo memorizzato nella schedina. Guarda, ti faccio avere un attimino, vediamo se aggancia, dai. Allora, inviato, ti dovrebbe essere arrivato due spunte bianche, c'è acceso e non acceso, poi dimmi se ti è arrivato. Che sogno avrei, mamma mia, sono ancora in pigiama, porca paletta. Oh, abbiamo parlato in due. Ma andato Marco. Ehi, inviate le due foto, guarda, ci sono i due segni di spunta bianca, controlla. Ecco, spunta blu. Bello, guarda quanto è grande. Immaginati, guarda, con le luci blu, sì, sono sotto due lampadine. Io sono staccato i fili, ho lasciato tutto dentro, ho solo scollegato i fili e con le saldate alla striscia LED che l'ho messa sempre sotto. Ma è un gioiellino, guarda, dipinto di blu. Anche blu è molto carino, molto carino. Comunque credo che l'antenna fosse messa peggio, Praticamente il centro banda, sai dove ce l'ho? Proprio il centro banda. Sul canale 12. Canale 12 è il centro banda assoluto. E puoi salire un sacco di frequenze e scendere un sacco, e le stazionarie ancora sono tollerabili, molto oltre sotto il 2. Caspita! Quello sul metrino piccolo mi segnava un mare di stazionarie. No, questo è molto generoso, è preciso, capito Marco? Fino all'1.4 per esempio difficilmente che lo vedi salire, 1.3, 1.4 difficilmente che lo vedi salire. Ma sono tutti così, Per analizzare ci vuole l'antenna, un analizzatore, l'unica è quella, capito? Con l'analizzatore sì, quello che uso io per costruire le antenne, con quello ti dà la precisione assoluta, oh Marco. Però regolatelo bene l'ago delle stazionarie. Ah, ti risulta in basso, perché vabbè, io la foto l'ho scattata un po', credo dall'alto, fammi vedere. No, hai ragione. Ah, ma sono scala 200, scusa, ho sbagliato io. Devo stare attento a non fare casino. Ecco, 4 watt circa. Allora Lu, se faccio la foto frontale, proprio frontale allo strumento, in asse, dello strumento è proprio a zero, sia l'uno che l'altro, però tendo a fare le foto un po' dall'alto. Aspetta, controllo. Gianni, sei rientrato? Vedi, la foto che ti ho mandato io. Come lo vedi tu nella foto? Io lo vedo davanti, non è che... Capito? Il mio è così, è tarato così. Devi leggermente la vetina di sinistra, devi leggermente toccare, ma proprio un pelino, Sì, allora, se lo guardo seduto sul divano, gli occhi sono molto più in alto e lo zero, la lancetta la vedo sotto lo zero un po', no? Però poi quando voglio letture precise mi metto con gli occhi frontale allo strumento, proprio in asse con lo strumento. Se lo metto in asse allora è sullo zero, tutti e due, sia i watt che i riflessi, no? Sì. Aspetta, ti sto mandando quelle foto. Comunque lo ZG lo brucio, lo ZG ti segnava un bel di watt che non erano reali, un bel di watt. Stazionario non ne segnava proprio, cioè del ZG non ne segnava, invece quello piccolino Proxel segnava troppe stazionarie, troppe, e anche un bel di watt. Guarda con la striscia LED blu, ci sono 6 LED blu, per tutta la larghezza del vetrino l'ho messo. Eia, eccolo qua, bello, caspita, questo sarebbe in pandance col 3009 display blu. Sì, molto suggestivo, soprattutto la notte. Sì, no, se poi te le devi mettere fammelo sapere, te ne do un pezzo di quella striscia. Non fai altro che di saldare i due fili del sono due fili attaccati, una a destra e una a sinistra, li disaldi dalle lampadine e li saldi uno da una parte e uno dall'altra parte della striscia LED, viene attacchi sotto perché è adesiva, capito? Sotto nella plastica blu la devi attaccare, in modo che poi quando rimetti lo strumento, capito, che hai caso è una vitina già, risulta la luce da sotto. E lavoro di 10 minuti, capito? Eia, magari finché in garanzia, adesso è arrivato proprio stamattina, e anche per Dineretto, la dura realtà, gli altri rosometri regalavano watt a profusione, invece sono pochi watt. Te lo faccio davanti. E beh, prova. Aspetta che ho sbagliato. 55, 4 d'ingresso, 55, 56 fa i reali. Mi fido più di questo che di quegli aborti che ci avevo prima. No, ma questi sono precisi, sono strumenti professionali, Marco, se è fatto non bene o di più, capito? Di più. No, va benissimo, 6955. Quanto è il segnale? 9,55. Addirittura, e quanto guadagna? 10? No, guarda, 4. 9,30, 9,40 modulati. Eia, doppio run, che fine hai fatto? Scommetto che sta ciupandomi. Va bene, io adesso stacco, vado a vestirmi, che sono in pigiama ancora, in pantofole, mamma mia, c'è un po' di freddo qua perché mamma sta prendendo tutto per arieggiare, giustamente, e c'è aria freschetta nonostante il sole. Ok Luca, dai, sentiamo quando capita e buon proseguimento di serata, ok? Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao se sei all'ascolto. Ma poi Marco, vedi la luce blu che illumina dappertutto, invece guarda quelle originali, tipo le tue, vedi, si vede, sono due lampadine che puntano in un certo modo. Io credo che avessi chiuso, l'avevo salutato e stavo spazzolando i canali, aspetta che guardo. Sì, ho visto una foto, aspetta, va, sto sbagliando chat, lui. Ma dentro è vuoto, non c'è niente, è vuoto dentro, c'è lo strumento e beh, credo fosse più imbottito, dai. Chi è? Ah, è caro. Vieni a calmare l'arminia, sì. Mi mi cavolo a venire, picchia. Hai zitta, io ho bene cosa, Antone. Eia, fai pure anche problema, tanto stavo facendo la domanda anch'io poco fa. Ho pensato le lampade a LED in salone, molto meglio le lampade da 100 watt, guarda che vendevano. Scusa, un'altra cosa. E pensavo credo. Gli ho messo dentro la plafonia addirittura. Io ho detto, non si vede nulla. Quelle plafonie fatte a coso, a tipo marchetta, rimaneva la lampadina fuori. Adesso invece non si vede, sembrava la pastore, adesso vedo. Questi LED ADCM e tangolani non si vedono per niente. Li ho messi agganciati alla profumiera dentro, è perfetto. Lo so. Io sono tutto a LED qua, vabbè, io perché c'ho anche l'impianto solare, capito? E tutto a LED ho messo in casa, ma va giù la casa illuminata al giorno. Tu ci hanno fatto la foto, sono i 5-4, tu figurati. C'è una casa, il salone illuminato al giorno proprio. La seconda cosa che devo fare è piazzarmi qua una... metto a fare sapatate di riparazioni, una di quelle lampade lì, me la aggancio nel muro, ti passo il carretto, così almeno quando devo farmi riparazioni, punto la lampada a LED dove devo fare i lavori e sono tranquilla. Me la accendo quando voglio io. Dimmi. Ma il telefono acceso ce l'hai? Io ho acceso il telefono. Stavo guardando quelle cose che avevo fatto su Facebook, che non c'è più né concessione né niente, non si pagano gli 12 euro e puoi usare tutta la 27 e anche il PMR a gratis. C'hai una lì, Antonio, anche lo sappi. Da fine anno già, perché beh, la PMR è integrata nella CB, così che, infatti uno ha fatto una domanda, cioè c'è gente che ancora non lo sa. Vabbè, ascoltate il messaggio, dai, KK, aspetta che te ne devo mandare un altro a proposito di vintage. Via, aspetta che prendo il telefono in mano, 2 minuti che... ce l'ho qua, sotto il barattino ce l'ho. Allora, sì, mi è arrivato il tuo messaggio, 1 minuto e 2 centesimi. Oh yeah! Hola, attenzione, dici. Ciao, buonasera. Stai uscendo, passo del radio, come mai? La radio è così, è questa, è una radio. Adesso ti sento bello forte. Ah, così più forte? E così non è buono. Non così, prima eri, forse stavo parlando a voce bassa, non so. La più forte qui. Più forte questa qua, così è. Così con la musica. Però. Io stavo pulendo questo qua. Mi stavo dando problemi. Allora, così è con la musica del 1008. 1008 di quella resistenza di 1008. Da un po' più radio, non lo so. Guarda adesso com'è questo qua, sto uscendo col microfono normale con l'eco del gas. No, perfetto, va benissimo. Meglio, è meglio questo qui oppure quello del microfono del Samsung? Ma, allora, questo cos'è? Cos'è un Samsung Echo, ma è? Sì, Samsung Echo, col microfono normale. Ma normale suo del Samsung Echo stesso? K? No, va bene, perché noi puoi mettere un microfono certificato che c'è già certificato lui. Praticamente con l'eco del Galaxy, se poi io tolgo l'eco magari arriva basta confermi, va così e senza ecco. Vai, prova, così è senza e così è con. No, è uguale, la radio è uguale, forse... ma la sua linea di radio veramente è un evento, capito? Sono due regolazioni da fare. E quella radio sale fino a me, a quanto vuoi si fa quella radio? Ma io non lo voglio bloccare, è originale questo qua. L'ho pulito ieri perché stavo facendo, stavo in scala, sto parlando. Diceva, non si capiva. No, di quella radio ho già saputo come parla, non proprio tutto alla perfezione come parla salire per il radio. E ascoltandomi un po' un'altra persona che ti ascolta, riesce a portarla una proprio bene. Ma già va bene così, no, ma io ce l'avevo già proprio il trimmer della modulazione, già aspetto. No, certo non faccio la. Un paio di prime ci sono da contare, due o tre. E perché cosa? C'è scritto modulazione, c'è VR, quanto uno c'è, se non mi ricordo qual è. Ma già ci devo dire insegnare. Sì, ma abbiamo una cosa. Infatti, al massimo, quanto ti salgono quando c'è la portante? Al massimo sto parlando, Non lo so, perché io li ho abbassati, cioè, al minimo sono 3,5 watt, al massimo adesso 9. Bravo, bravo. Perché se tu li metti due, quelli arrivano anche a 20, sai. Però hai fatto giusto, io lo facevo al massimo 10, siamo tutti a regolare. Hai fatto giusto, al minimo 3 watt e al massimo non più di 10 watt. Hai fatto giusto, così che vedi. Io l'ho alzato perché quando me l'hanno venduto uscivo con 4,5, probabilmente la regolazione per lo usiamo con lineare. Sì, ma va bene. Nel fatto tu ti chiudi come te l'avevo io e al massimo 10, perché se tu lo alzi dal 13, QR13, e poi c'è un altro che devi guardare per il minimo, hai capito? Il massimo e il minimo, hai capito? Ci sono due minimi, uno fa proprio il minimo che scegli e l'altro fa il massimo. E adesso come sta arrivando il segnale? Guardalo bene e poi provo a attaccare per come ti arriva. Adesso come ti sta arrivando il segnale? Questo. 9 più 20, questo lo taratto io ascoltando a voi, spaldandomi più o meno con le altre radio, come arrivavo, mi arrivavate qui, lo taratto io questa settimana, qualche anno fa, però non so se è tutto perfetto, comunque 9 più 5, la radio è tutto 5. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Si è salito un po' di più, sono i picchi che fanno di più quando attacco. I picchi che vanno quando parli, capito? Appaga, è per mettermi in conto. La radio è sempre bella, Bellissima, perfetta. Adesso sono con 2 o 3 watt. Guarda così come arrivo. No, va bene già, va benissimo. Queste sono radio che lavorano bene. Con massimo 4 watt. E c'è una bella radio. Con 4 watt. C'è una bella radio. Capito? Sono 4 fasi di portante che poi vedo che c'è abbastanza di picchi positivi. Buonasera. Ciao Claudio. Ciao Claudio. La mamma si apporta la radio. Mi tocco. Sto provando adesso che l'ho pulita tutta dentro. Vediamo un po' come va. Ho pulito i potenziometri, tutto qua. Se non va così vuol dire che c'è qualche cosa di grande. Per il momento sta andando bene. È un microfono normale, sì. K normale, sì. Usa il microfono normale, basta. Sto uscendo benissimo, la grande. Però se ci sia qualche rientro di RF con il microfono da tavolo. Vabbè. Ottimo, sta andando benissimo. Ciao DJ. No, qua l'avevo provato, faceva lo stesso con il pettolare con questo microfono. Ma questa cosa è il Galaxy, stai usando adesso? Adesso è il Galaxy, col microfono normale, col microfono Galaxy, marchiato Galaxy. Allora va bene, perché devi usare il microfono a tavolo? Usala con quel microfono che... Capo, io vendo... No, io me la giro a comprare la mia già. adesso aspetto che arrivi lunedì, poi io non metto niente, io la uso normale col suo microfono, prima provo il microfono da tavolo, se è vero che non lo riceve io la uso col microfono normale, non me ne frega niente. Allora se tu hai il microfono normale, va bene, come vedi va bene con il microfono normale, io quando una volta Vittorio me l'avevo messo a posto, era a Porto Torres, mi ha chiamato, ha detto Gianni come mi ascolti, benissimo, senti dal radio, e mi ha detto questo è il tuo baracchino con il microfono normale, non li mettere più lì, c'era bene il cazzo, se no ti fa fare il modulatore. Perché sono radio molto particolari, infatti. Vabbè, io adesso quella che avevo, quegli altri che avevo li usavo col microfono normale, non ne ho mai messo un microfono da tavolo. Ah, sì, ho questa, siccome ce li ho i microfoni, diciamo che la radio con lo stesso attacco, quindi il microfono con lo stesso attacco lo provo. Se vedo che si comporta male, si usa col microfono normale. Pazienza, non è un problema, già ne ho altre col microfono a tavolo, però l'importante è avere la radio a posto. Avanti, dici. Il problema non c'è più. tutte le radio, su tutti i microfoni, su tutte le radio che ho, capito? Quindi può darsi pure che sia un rientro di RF causato proprio dal cavo, dall'interno lì, dagli spezzoni, strumenti e balle varie, Gianni, capito? Non è detto che sia, perché quello è un difetto, un problema che non è un rientro di RF, capito? Non è un problema di radio, secondo il mio punto di vista. Poi non lo so, poi un tecnico può vedere le cose meglio di me, però ti ripeto, queste cose sono causate soprattutto da commutatori, spezzoni, PL, cavo, capito? Soprattutto così, in questo contesto, perché è successo anche a me. Faccio un altro microfono e lo faccio con lo stesso. Cambiate lo spezzone che va dal vostro microfono alla parete. E niente. Voi cosa ho fatto? Provate a abbassare la potenza. E niente. Provate a abbassare il backing. E niente. Ho abbassato il microfono. E niente. C'era proprio, le ho fatte. Io ho capito Gianni, però io ti dico una cosa, può essere anche una coincidenza, può essere anche una coincidenza, rimane il fatto, ripeto, però può essere una coincidenza, ma rimane anche il fatto che l'antenna che sto usando è un'ottima antenna, però io non ti ho mai sentito nel modo più assoluto avere un problema quando arrivi a Mantova, ok? Mai e poi mai. Qualche cazzatina, ma non tutti i problemi che stai avendo da quando hai montato questa antenna, perché può essere anche una coincidenza, non c'è problema, però può essere anche che con il tempo che sta facendo, con la pioggia che sta facendo, eccetera, l'antenna abbia risentito di tutta questa umidità, tutta questa cosa, o il PL di su abbia risentito il cavo stesso, eccetera. Che è una bellissima giornata non te lo sta facendo, capito? Quindi ci sono tanti fattori che noi magari andiamo a pensare che sia un problema di radio o un problema di microfono, quando una cazzata, una qualsiasi cosa può dipendere sia dal cavo esterno sia dall'antenna esterna, capito? Perché io ti ripeto, attenzione, ti ripeto, può essere una coincidenza, però io a te non ti ho mai sentito come questo periodo avere tutti questi problemi che hai, perché non ti ho mai sentito quando avevi l'altra antenna, quindi cosa vuoi che ti dica? Non lo so. Allora, prima cosa, se fosse stata l'antenna mi avrebbe scelto il cancellare, ma ci può volere meno, infatti lo so. Poi, secondo luogo, con gli apparecchi va bene, come va, se fosse stata l'antenna sarebbe andata male con tutti gli apparecchi, non con un po' solo. Cerca di capire. No Gianni, ti correggo, non, assolutamente no, e te lo dico per esperienza vissuta, perché grazie a Dio di antenne, di radio ne ho masticato più di te, assolutamente no, quando l'antenna è umida le stazionarie non salgono, non so, ti può creare dei problemi di RF, ma le stazionarie sono un'altra cosa, le stazionarie sono causate da il cavo, se è praticamente si spezza, se hai problemi sul PL di connessione all'antenna, se hai problemi, guarda che le stazionarie non ti salgono neanche se tu hai un PL in corpo all'interno, capito? Ti crea problemi di quel genere, ti crea problemi di quel genere, ti si abbassa il segnale, ma le stazionarie non si muovono, verre da me, tranquillo che è così. Quindi quella è un'altra cosa, quella è un'altra cosa. Se poi tu cambi radio e non te lo fa, che poi non è vero, perché l'altra volta che hai cambiato radio stavi uscendo lo stesso con un innesco, ok? Quindi già, questo è il mio punto di vista, poi ti ripeto, tecnicamente si possono verificare e dire tante cose, però quando io ho avuto quel problema lì, che non è per i robini, tanto è vero che ho comprato altri due microfoni, ok? Il problema era all'interno della stanza con questo spezzone di RG 58 da 4 metri, forse anche meno, che attraversava da una scrivania all'altra. Ho cambiato quello spezzone, ho messo un cavo buono come la Camille, perché ce ne ho ancora, e il problema è stato risolto. È un RF che tu hai, un rientro di radio. hai. Tranquillo, guarda, no, ci metto la mano sul fuoco. Vai, Gigi. Sì, ma io questi problemi non li ho mai avuti, perché io ho il Kevo da una vita e i miei microfoni non fischiano, non innescano, io li porto anche alla massima potenza di Michigan, non innescano, perché il lavoro che ho io in questa stanza è proprio un lavoro di massa. Io sia in una scrivania che nell'altra, attaccata al muro, certo in basso dove non si vedono i giallo-verdi, ho delle barre di rame tutte forate, tassellate a muro, dove partono i giallo-verdi, le masse che vanno alle radio, e così anche i baracchini, la stessa cosa. Anche nell'altra scrivania, quella foto che ti ho mandato, già l'hai vista, lì ci sono tutti in base, quelli hanno tutti il giallo-verde collegato, e quindi non è un problema di massa per me. Quindi il problema a me non mi è mai successo. A lui potrebbe essere anche una cosa del genere, tant'è vero che il rientro di RF è causato proprio da una mancanza di massa sulla radio, una mancanza di massa sull'antenna, una mancanza di massa sui PL, capito? E quello è il problema, perciò è così. Non è che lui avesse aperto la radio, la pulita non lo sta facendo più. Sono sempre coincidenze, sono spostamenti, capito? Io un giorno avevo un problema del genere, nonostante avessi attaccato i cavi di massa come sono regolarmente collegati, ho spostato la radio da un punto all'altro, non l'ho fatto più. Evidentemente in quel punto lì c'era questo problema, dall'altra parte il problema non c'era, capito? E così, vabbè, comunque Gianni è abbastanza esperto in queste cose, quindi vedrà lui cosa deve fare. Secondo me non è un problema di radio, la radio non ha niente. No, ma poi c'è anche qualche mancanza di massa di qualcosa, e meno quello che lo fa, perché a volte che come volesse andare in protezione da sola, capito? vedi un po', adesso stai andando bene, usala così, se dovesse ricapitare il problema sicuramente la radio è da far controllare. Toccandolo con le mani, non mi toccavo con le mani, come si fa a risparmiare? Apro la già prima. E poi ci sono ancora che mi sento, col cacciatino quello lì. Era uno che mi ha detto non era attaccato bene, che non c'era una persona che era attaccata. Come si sentì appoggiato col cacciatino, come lo faceva, con la col cacciatino, non lo faceva. E l'ho fatto una salvata, ma non so se è come secondo come la molta, come la girata, hai capito? Perché è stata poco, poi c'è tutta una falsa saldatura che si deve trovare, me la così compendo, la sto soffiando da a volte non fai, capita quasi una cosa, guarda, tipo, sicuramente il rendimento, le controllo, tutte a uno, io che la trovo, quella che non la vedo, ma la trovo, ma non la vedo, non la vedo, sì, ma è così, adesso si sta verificando, lui sta vedendo un po', può darsi che sia così. Avanti Gianni, Gianni sparito. No, avevo sbagliato il microfono, ho preso quello, stavo prendendo sopra quello da tavolo e c'ho quello da papà. Ehi, ha capito, vedi un po', io ti ripeto, queste sono le esperienze vissute, quindi bisogna stare attenti soprattutto a queste cose. Poi le radio hanno la sua età, le sue cose, quindi è fattibile che ci dobbiamo sempre aspettare qualche problema, però io adesso non lo so, devi vedere tu, tienila così, se il problema ritorna allora fai controllare, se il problema non ritorna Gianni, così col microfono normale e la radio va bene, può darsi pure che in quel contesto stava risentendo di questo microfono, adesso tu la radio la stai usando nello stesso punto dove era ieri col microfono normale. Certo, dove ce l'alloggiamo in questo qua. Ma se tu la vedi io l'ho aperta, è lucida, era lucida senza passare le spray dentro la luce, c'era una bombina perfetta di contatto, di controllata. Io ho aperto tutti gli sviluppi, scusato per contatto, per vedere se era quello. Insomma, tutto quello che potevo fare l'ho fatto. Spray per contatti, non svito, ricordo. Attenzione che lo spray per contatti che noi usiamo quando attacchiamo le spinette, lo sfruttiamo, poi lo rimettiamo dentro, è una cosa di protezione, ok? Quindi protegge e isola tutto ciò che può essere anche RF, attenzione, anche quando tu lo sfrutti sopra, per così, quella è una cosa di protezione. Dal momento in cui quello va a svanire, va ad eliminarsi praticamente, perché col tempo si toglie, cioè non esiste, allora esiste nuovamente lo stesso problema perché non c'è più protezione. Quindi a quel punto tu dovresti provare a fare una cosa, se riesci a mettergli un giallo verde a questa radio, no? Dalla vettina di dietro della cassa, a parte il fatto che c'è la sua vettina per attaccare la massa, quella radio lì, e la colleghi magari dove c'è la massa dell'alimentatore, capito? Ma il spray che ho messo io si asciuga subito, si secca subito, perché lo spray asciuga, come lo spray si asciuga subito, non è di quello umido, rimane secco lo spray che ho comprato io, l'ho comprato da Pusano per impianti di radio eccetera eccetera, quello lì lo usano i tecnici che fanno impianti eccetera. Quello per gli impianti elettrici, quello lì. Ho capito già, ma ce ne sono tante di spray a protezione dei circuiti stampati, a protezione dei connettori, a protezione di tutto, no? Ci sono, però ti ripeto, sparisce, si va via, allora rinizia il problema, tutto qua. Vabbè, comunque insomma, si è fatto quello lì. Se non hai sporcato la radio da dove era ieri, se non hai allontanato niente da vicino alla radio, se non hai sporcato il microfono, se non hai fatto nessuna manovra rispetto a dove, quello che devi capire tu, capito? Perché sono tue prove. Io ti ripeto, io ho sporcato la radio da una parte all'altra e il problema è sparito. E quindi ho capito che in quel punto c'è un rientro di radiofrequenza. Causato da che cosa? Era causato dai cavi di alimentazione che salivano da sotto e toccavano praticamente, camminavano a fianco al connettore del PL. Capito? Queste sono tutte prove che sono state fatte e che abbiamo messo in saccoccia proprio perché ci è successo il problema. Tu quello devi capire. Se in quel punto dove c'è il Galaxy c'è qualcosa che sta dando fastidio, al momento in cui tu inserisci un microfono da tavolo che è molto più chiaramente selettivo, molto più percepisce molte più cose rispetto al microfono normale e ti crea quel problema, tu lì devi capire. In quel pezzo dove tu stai lavorando col Galaxy se c'è qualcosa che ti dà fastidio, oppure lo puoi mettere da un'altra parte, inverti le cose. Un consiglio che ti do: non mettere mai alimentatore, che a te piace avere luce, lucette e cose, non mettere mai l'alimentatore vicino alla radio, ok? Non si mette, è una cosa che non si mette, proprio non si fa, perché l'alimentatore, avendo una tensione, crea problemi al circuito di trasmissione della radio. Allora Claudio, andiamo per esclusione, lo sai tu che il Galaxy, come è fatto il mio mobile, nel Galaxy c'è solo giamento, ieri l'ho detto tolto e l'ho rimesso. A fianco al Galaxy non ci sono alimentatori, ma c'è solo il microfono amplificato. E adesso questo di avere chiarito il tutto, non c'è nessun alimentatore, è l'unica cosa che c'è è che ci sono le luci blu sopra, ma non hanno mai dato fastidio, si sono sempre state e non hanno mai rotto le scatole. Comunque non è quello lì sicuramente, perché adesso ce l'ho acceso e lo sta facendo lui. No Gianni, tu quando io parlo devi cercare di capire, non ti sto dicendo che c'è o non c'è, questi sono i problemi, non si mette quello, non si fa quell'altro, se poi la radio è da sola, ben venga, però devi capire se lì dove tu hai le radio c'è qualcosa che può dare fastidio al Galaxy, capito? Quando inserisci il microfono da tavolo, perché un microfono da tavolo io no, adesso non so se tu lo tiri fuori, hai qualche base, deve avere una certa distanza dalla radio, perché se lo metti a fianco può crearti problemi, se lo metti sopra la radio può crearti problemi, sto dicendo se, non che ce l'hai tu, capito? Tutte queste cose, ok, o se il cavo è lungo e te lo porti sino a dove trasmetti, ci sono tante cose, io ti ho portato un mio esempio di uno spostamento che ho dovuto fare, perché il cavo di alimentazione che era sotto la radio, non a fianco, camminava praticamente a fianco al connettore del PL una volta che era su e mi creava rientro di radiofrequenza, capito? Mi creava problemi, quindi ho dovuto fare degli spostamenti. Siccome a me queste cose sono già successe, io ti sto dando un consiglio di controllare queste varie cose, perché può essere anche quello, capito? Soprattutto il microfono, certa distanza dalla radio, non mai vicino alla radio, non sopra la radio, non a fianco alla radio, ma soprattutto avere una certa distanza e una base. Il microfono da tavolo non si tiene in mano, perché altrimenti fa casino, perché noi abbiamo ti crea problemi, insomma, ti crea problemi al microfono. Non sto dicendo che tu lo tieni in mano, però queste cose non si fanno, capito? Riprendi e fai girare per il gigi. Ehi, ehi, ehi. Ah, il microfono è sopra il piano. Avanti. Però quanto era normale? sono, come può essere anche il bagno, eccetera, eccetera, non si adegua ai microfoni amplificati da apparecchio, perché hanno già dei volumetri che sono quasi volumetri, come si chiama, dei modulatori che sono già abbastanza forti come radio. Quindi se tu li attacchi qualche altra cosa, non fai uscire ulteriormente forte, non ce la fa la parecchia. Sì, un attimo, rientro subito. Adesso ci metto la politica. Beh, chiaro, tu ci sei puliti gli anni. Sì, solo io. Capita, bastava metterlo nella gabbia, te lo pulivano loro.